Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Tre numeri e un po' di buon senso, questa è la ricetta per aiutare il nostro sistema immunitario a fare bene il suo dovere, e cioè difenderci dall'attacco di virus, batteri, funghi, parassiti e anche contro le cellule tumorali. Volete sapere questi numeri? Io ve li dico tra poco, ma dovete promettermi che cercherete di applicare questa formula, perché altrimenti che ve le dico a fare? Intanto proviamoci. Saluto il professor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica Milano, che è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi, è sempre bello essere qua insieme. 0530, questa era la regola, come ha affermato in più occasioni anche il suo collega professor Mantovani, immunologo, autore del libro I guardiani del nostro corpo. 0 sta per 0 sigarette, 5 le porzioni di frutta e verdura, 30 minuti di attività fisica quotidiana. Detta così, professore, sembra molto semplice, ma chiedo subito ai nostri amici da casa se e dove, in quale numero incontrano difficoltà e perché. Il fumo? Il consumo di frutta e verdura? L'attività fisica? 800 24 00 24. Professore, partiamo dal fumo. Non basta ridurre, occorre proprio arrivare a zero? Lo dico da ex fumatore. Sì, quindi, sì, quindi sì, vale doppio. Vale doppio, nel senso che cercando di camuffare i miei tentativi di smettere, in realtà riducevo, in realtà bastava uno stress, una situazione tensiva, un problema, una qualsiasi ostacolo trovato per trovare la giustificazione per rimettersi a fumarne un mucchio. In realtà poi posso dire come ho smesso. Sì. Ho detto, una volta ero al chiuso, stavo fumando e mi sono trovato con 3 sigarette accese in contemporanea. E ho detto, mi sono dato un insulto fondamentalmente, ma la cosa vergognosa, da lì ho deciso, smetto, perché evidentemente è un'addiction, una dipendenza, è che mi sono venuto in mente tutte le volte che continuavo, mi avevo trovato con 2 sigarette accese e mi trovavo una giustificazione. Ho detto, no, non è possibile. E la giustificazione non c'è, lo dico perché operativamente il fumo ha un'azione intanto ossidante generale, perché normalmente la gente pensa al fumo e vanno a cercare i danni specifici che il fumo determina, e lì le ditte che producono sigarette trovano facile, perché non è così facile documentare i danni diretti da fumo. Il problema è molto più ampio, è che il fumo determina una ossidazione, quindi riduce le tue capacità difensive, proprio agisce sul sistema immunitario. Significa, l'immagine più chiara che possiamo avere è quella della corrente sotterranea che erode la costa e che quindi consente poi alla roccia di franare. E questo lo dico perché ogni volta che uno tira una boccata di sigaretta dicendo ne fumo una al giorno, in realtà in quel momento le sue ciglia vibratili, che detto così sembra quasi erotico come cosa, però però sono quello che copre le nostre, sono le celluline che ricoprono le nostre mucose respiratorie, vengono come paralizzate e smettono di funzionare. Cioè quello che è la normalità della funzione di queste specie di peluzzini interni piccolissimi microscopici che fanno funzionare le nostre situazioni respiratorie vengono inibite. Quindi va cessato, ci vuole un po' di attenzione, ma va cessato. Alessandro ci ha scritto su Facebook: premesso che corro in media 10-12 km un paio di volte a settimana, fumare 5-6 sigarette al giorno mi è così deleterio? Guarda, noi corriamo io corro e mi sono reso conto che se si corre e si fuma fai male una e l'altra. Noi avevamo un bellissimo campione che era Gigi Riva, noi che siamo un po' più anziani ce lo ricordiamo, certo. Il goleador, che a volte capita che alcuni atleti si fermino a fumarsi una sigaretta per fermare lo stress. Dal punto di vista dell'atto atletico è un atto decisamente problematico. L'indicazione è prova, lotta, cerca di capire, 5-10 sigarette non è poco, 5-10 sigarette è tanto per un organismo che vuole correre. Se vuoi correre bene, poniti un obiettivo, una maratona che non hai mai fatto, ad esempio, riesco a portarla a termine. Ti accorgerai che quando arrivi al 30° chilometro la differenza fra avere o non avere fumato quelle 5-10 sigarette al giorno è importante, così te ne rendi conto. 800 24 00 24 se volete intervenire. Analizziamo invece adesso il secondo numero, andiamo alle 5 porzioni di frutta e verdura. Chi non mangia frutta magari rincara con la verdura e viceversa, oppure, professore, è il mix di frutta e verdura insieme che ci protegge? Ah, dunque, questo sicuramente. Devo dire che io non sono così cattivo. Quando vedo persone che hanno una avversione magari per la frutta, il dolce della frutta, eccetera, mangia solo verdura, dico che va bene lo stesso. Idem per chi mangia solo frutta. Però il mix è utilissimo, e anche chi non lo mangia o che ha dei problemi, chiedo proprio di iniziare un'abitudine magari microscopica. Uso un detto, che è il concetto di crudo, vivo e colorato, cioè un pezzettino, ma basta una grandezza di un'unghia. Quindi di mangiarsi un micro pezzettino di sedano, un morso d'arancia, un pezzettino di albicocca, una ciliegia, cioè piccole quantità o di frutto e di verdura prima di iniziare a mangiare qualcos'altro. Ha un'azione potente sia dal punto di vista della difesa del sistema immunitario sia per ridurre la presenza di allergie, di infiammazione da cibo, di eventuali intolleranze che possono nascere. Massimo, sempre su Facebook, ci scrive: ho alcuni problemi col consumo di frutta e verdura che non riesco proprio a farmi piacere. In compenso sto tagliando drasticamente il consumo di sigarette e contemporaneamente sto aumentando l'attività sportiva. Noi abbiamo chiesto appunto ai nostri ascoltatori di dirci, no, in questa regola, quale dei numeri li rende più difficile, no? Massimo sta provando quindi ad incrementare l'attività fisica e a ridurre il consumo di sigarette, quasi a proteggere in qualche modo, dare un contentino al suo sistema immunitario. Fantastico, io credo che Massimo stia facendo un percorso, vogliamo vederla così. Massimo ha iniziato un percorso e io dico che il benessere è contagioso, nel senso che quando una persona inizia a percepire che funziona meglio in tutti i campi, quindi dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista intellettivo, e inizia a capire che sta recuperando una maggiore energia, vedrà che andando avanti così tra poco inizia a fare anche qualche stop anche sulle sigarette aggiunte e quindi va verso un completamento di benessere che non guasta. Ci sono dei frutti o delle verdure che aiutano, sono più amiche del nostro sistema immunitario, gli danno più carica? Diciamo che tutti tendenzialmente hanno questa azione che segnalavo prima. Poi se vogliamo andare a capire quali sono quelli che hanno il maggior potere antiossidante, li cito senza dubbio i frutti di bosco. I frutti di bosco sono delle specie di miracoli ambulanti che troviamo, che quindi possono essere utilizzati, hanno davvero una potente azione di controllo dell'ossidazione, quindi dell'arrugginimento, no, dell'organismo. Sì. Per cui hanno, grazie alla loro presenza, insieme ad un altro frutto che segnalo, che oggi noi siamo abituati a mangiare anche a gennaio, quella cilena, voglio dire, però sì, l'uva, che è uno dei prodotti di casa nostra che maggiormente può portare l'apporto di sostanze, vedi il resveratrolo che c'è dentro, vedi i vari antiossidanti. Per cui comunque i frutti di bosco sono tra gli elementi, tra la frutta fresca, più validi dal punto di vista della gestione dello stimolo del sistema immunologico. Mentre per la verdura? Allora, per la verdura abbiamo un frutto, qualcosa che è il cavolo, che in realtà è anche lui è una specie di miracolone, no? Infatti i nostri vecchi lo curavano con molta attenzione, le verze rimanevano, venivano utilizzate in un certo modo, ed è un prodotto decisamente ricco di sostanze positive che merita quindi di essere utilizzato. E poi direi tutte, io credo che la logica sia davvero quella del seguire la stagione, nel senso che i cardi, i carciofi hanno il loro perché. Spessissimo pensa ad esempio un'arancia, l'arancia contiene dentro dei salicilati naturali che fluidificano il sangue nel momento in cui in inverno le persone hanno spessissimo una carenza di altre verdure, quindi il sangue diventa un po' più spesso, per cui sovente se noi seguiamo semplicemente il la stagione, calendario, certo, il calendario, abbiamo degli aspetti di possibilità di stare bene seguendo semplicemente quello che la forza della natura ha costruito nel corso di millenni. Basta un minimo di occhio. Il problema sai qual è? È che i nostri ragazzi, i nostri bambini credono che il melone fiorisca a Natale, che venga fuori a Natale, perché lo hanno sempre negli scaffali dei supermercati. Quindi stagione, assolutamente, stagione, e freschezza, e aggiungiamo anche a chilometro zero. Chilometro zero, questo è fondamentale. Professore, l'intestino però possiamo dire che è la cabina di regia del nostro sistema immunitario. Se l'intestino funziona bene, lo dicevano anche le nostre nonne, siamo a cavallo. Ma i probiotici lo aiutano? Sui probiotici ci sono dei lavori recentissimi che sono di una straordinarietà veramente potente. Intanto non sono tutti, nel senso che i lavori che vengono fatti, oggi abbiamo la possibilità di selezionare, ci chiariscono che l'uso accurato di alcuni probiotici ci consente ad esempio di controllare l'infiammazione da cibo, di controllare le reattività, addirittura azione preventiva nei confronti dello sviluppo di celiachia. Cioè ci sono lavori che stanno emergendo sul piano scientifico che ci dicono: ragazzi, ma avevamo a disposizione uno strumento fantastico che non è solo prendi un po' di fermenti lattici morticci, ma sì, quando si riescono a generare morticci, perché poi a volte la gente prende dei prodotti che sono in realtà solo dei residui, non sono i fermenti lattici vivi, non sono i probiotici vivi che riescono a ricolonizzare, a ridare creatività ed energia al tuo intestino, sono residui. Allora, dei probiotici fatti bene, qui serve una modalità particolare per farli, anche dal punto di vista farmaceutico, non solo sì, per fare farmaci potenti, ma per rendere anche prodotti naturali potenti, utili ed efficaci. E quindi hanno, devo dire, proprio un risveglio di utilizzo, di possibilità legato alle ricerche scientifiche di questi ultimi mesi o anni, che aprono ancora delle possibilità ulteriori per l'uso futuro. Quante e come usarli? Ah, bella domanda. Intanto, ecco, una delle cose importanti, diciamo che la cosa più facile che una persona si trova a dover fare è un trattamento antibiotico. Siamo purtroppo una società che usa antibiotici per ogni piccola stupidaggine. L'utilizzo di probiotici che vanno presi a stomaco vuoto. Quindi non è che uno dice, beh, adesso mangio e mi mangio il probiotico, perché è come buttare via i denari che uno ha messo via. Il probiotico deve colonizzare. Noi, se abbiamo un sistema digestivo che è abituato a uccidere i batteri per difenderci, certo, se noi mettiamo dentro dei fermenti lattici vivi o non lattici, che a volte è meglio, vivi nella pancia insieme al cibo, questo viene digerito e quindi vengono uccisi anche loro. Quindi a digiuno? A digiuno, tra un pasto e l'altro. Classicamente io scrivo alle 10 e alle 17, no? All'ora della queste merenda. Sono le facciamo ore. La merenda per un tempo prolungato. Si è visto che ricostruire proprio tutto il nostro sistema immunitario e il nostro sistema difensivo intestinale obbliga un tempo abbastanza lungo di utilizzo, quindi 20-30 giorni di trattamento. Prima dobbiamo arrivare ai 30 minuti di attività fisica, ma prima di parlare di quello, perché già solo all'idea di dedicare 30 minuti al giorno ci sono delle persone che si sentono già affaticate, dicono non posso, non ho tempo, non ce la faccio, volevo parlare con voi di alcuni segnali che il corpo ci manda e che tendiamo a spiegare come spie di un sistema immunitario un po' affaticato, detto in altre parole di un abbassamento delle difese immunitarie. Quando ad esempio siamo stanchi, stressati, reduci da un'influenza, fioriscono sulle labbra delle piccolissime bollicine, l'herpes. C'è qualcuno di voi che si riconosce, immagino parecchi, ma allora ne parliamo con il professor Giuseppe Monfre, l'ordinario di dermatologia all'Università Federico II di Napoli. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Luca, ti consiglio di lasciare quel caffè. Cosa fa? Minaccia al bastardo, perché se no mi tiri una calcolatrice in testa? Ah, come vuoi Luca, io lo dicevo per te visto che mi è venuto l'herpes. Ma hai infettato! Adesso devo pulirti, devo disinfettarmi! Beh Luca, devo disinfettarmi! Non è colpa mia, io ti avevo avvisato. Imbecille! Proprio stasera che dovevo uscire con Alex! Ma Luca, non è colpa mia, scusa! Appena ti esce questa roba in faccia, tutti ti prenderanno in giro 24 ore su 24. Professor Monfrecola, succede proprio così, ma all'improvviso ecco l'herpes e molti di noi sanno che quando sono particolarmente stanchi o affaticati sentono una piccola tensione sul labbro ed ecco lì che arriva. Come mai? Perché l'herpes penetra nel nostro organismo attraverso appunto lesioni aperte, per esempio qualcuno che abbia un herpes in atto, ma può anche essere rilasciato il virus herpetico anche da persone che non hanno un herpes in atto, e si tratta di una piccola percentuale di casi, ma comunque questo accade. Quindi quello che accade nel film è vero, anche se però la persona del film è già abbastanza adulto da averlo già verosimilmente contratto in età pediatrica. E quello che accade è che il virus, una volta entrato, si replica lì dove è entrato, solitamente alle labbra, in queste zone, se parliamo del virus labiale, naturalmente, e poi cammina lungo un nervo, il nervo che parte da quel punto e arriva dove? In un ganglio nervoso, per esempio per il viso può essere il ganglio di Gasser, del trigemino, e quindi lì rimane nascosto allo stato latente. Poi accade quello che diceva lei, c'è a un certo punto la slatentizzazione. E in quei momenti bisogna stare particolarmente attenti e soprattutto non baciare, professore, almeno in quei giorni lì. Almeno in quei giorni lì, direi di questo sì, naturalmente non facciamo allarmismo, certo se le lesioni sono aperte è preferibile non scambiarsi i baci con il partner, naturalmente. E il fatto è che l'herpes recidiva sempre nello stesso punto e molti si chiedono perché torna sempre lì. Ecco, ritorna sempre lì perché dopo un po' di tempo che è stato latente lì, cioè nascosto nel ganglio, c'è qualche cosa che influenza il sistema immunitario in qualche maniera, e a questo punto il virus percorre al contrario la stessa strada lungo il nervo fino di nuovo a quel punto della pelle da dove è originato, e abbiamo quindi la recidiva. Ci sono persone invece che si confrontano con l'herpes dopo una giornata di sole. Sì, è vero, la latentizzazione del virus che è lì allo stato latente può avvenire per vari motivi. Naturalmente è il sistema immunitario, qui è un gioco tra sistema immunitario e virus erpetico, per cui ogni volta che prendiamo per esempio un farmaco che ci porta giù il sistema immunitario oppure siamo immunologicamente depressi per altri motivi, il virus può latentizzare. Lei faceva una cosa molto importante, la luce solare. La luce solare è esperienza di molte persone, come ci si prende il primo sole può scoppiare un herpes. Ebbene, il problema qual è? È che non tutti sanno che la luce ultravioletta ha un effetto sul sistema immunitario, in altre parole ne modifica la funzione, anche in senso lievemente depressivo, questo non deve preoccuparci più di tanto, però ecco, quella immunodepressione da ultravioletto è in grado di slatentizzare il virus erpetico. Naturalmente la immunodepressione da ultraviolette è anche alla base dello sviluppo ad esempio di tumori cutanei, ma questo è naturalmente un altro argomento che non ci compete in questo momento. Professor Monfreco, le indicazioni per chi in questo momento sente una piccola tensione, un dolorino e sa che l'herpes o intuisce che l'herpes è lì per fiorire? Sì, beh, se è già convinto di questo, quindi non ha un medico pronto a disposizione o anche non ci sono ancora le vescicole, ecco, la cosa migliore è rivolgersi subito al farmacista e farsi dare dell'aciclovir sia in pillole sia in crema. Questo può servire a limitare l'eruzione erpetica che sta sopravvenendo. Grazie professor Monfreccola per essere stato con noi. Buonissima giornata. Grazie a lei, buongiorno. Ma c'è chi non fiorisce ma starnutisce. Secondo la medicina olistica, gli starnuti sono un modo per eliminare le tossine. Quando siamo congestionati, intasati di impegni, difficoltà, scadenze, non solo arriva l'herpes ad alcuni, ma arriva lo starnuto liberatore, o meglio purificatore. Dottor Andrea Franzetti, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello, Balsamo. Dottor Franzetti, lei che dice? È un modo per eliminare le tossine? Sì, è un grande alleato del sistema immunitario perché fa da difesa meccanica al naso e quindi alle tossine che si possono depositare nel naso e poi anche aiuta l'eliminazione delle tossine attraverso l'eliminazione del muco che si forma nel naso e questi sono due meccanismi molto importanti. Non bisogna, mi scusi dottore, l'ho interrotta, non bisogna trattenerlo ma farlo bello secco. Assolutamente, perché è fisiologico liberare il naso, anzi fare lo starnuto chiudendo il naso con due dita non fa nient'altro che mandare tutto nel rinofaringe, cioè verso le orecchie, verso la gola posteriormente, non è sicuramente salutare. Certo che siccome lo starnuto sa che noi dobbiamo essere educati, ci avvisa che sta per arrivare con un certo formicolio. E quindi noi possiamo preparare il fazzoletto. C'è anche il pre-starnuto, il tempo per mettere mano al fazzoletto. Certo, c'è una specie di aura in cui uno ha la sensazione che lo starnuto sta arrivando e quindi al tempo, se è una persona educata, di non starnutire in faccia chi è davanti, ecco. Professore, dottor Franzetti, grazie per essere stato con noi. Buon saluto anche a lei. E noi andiamo a Pordenone perché c'è Massimiliano 800 24 0024 per parlare della regola 0530. Buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una domanda in merito ai frutti di bosco. Sì. Sono antiossidanti. Sì. Si devono assumere freschi oppure va bene anche come marmellate, come succhi di frutta? Bella domanda, freschi è meglio sicuramente, diciamo che surgelati perdono un po' la loro visione bella dell'essere fatti come sono fatti, però possono contenere ancora tutte le loro azioni. Come marmellata diciamo che noi abbiamo alcuni degli elementi che vengono conservati, ma molti che vengono dispersi dal calore, quindi direi meglio freschi. Direi che tra una marmellata fatta di zucchero e zucchero, una marmellata fatta da pochissimo zucchero, anzi con succo di mela come dolcificante e solo lamponi, è meglio quella fatta di lamponi. Indubbiamente abbiamo alcuni elementi, però è meglio freschi. 0530, parliamone insieme, 800 24 0024. Adesso andiamo a sentire le informazioni sui mercati e il meteo, ma prima vi ricordo come sempre, ogni giorno andate a leggere il nostro Daily Lab. Daily Lab, i consigli della salute. Essere e benessere. 0530, questa è la formula per dare sprint al nostro sistema immunitario. Dottor Speciani, che cosa possiamo aggiungere? Direi che, sai, quando la gente parla dei 30 minuti va in crisi mistica, sì, come si diceva, no? Per cui la logica è proprio quella del trovarsi delle motivazioni. Io in genere parlo del fatto che le persone devono svegliarsi al mattino, e non è un'indicazione mia ma del dottor Strunz, devo dire un nome o un programma indubbiamente che però direi che è molto conosciuto nel mondo tedesco e austriaco, il quale dice, prendo una sua frase in uno dei suoi libri, in cui dice: al mattino quando ti svegli devi avere un cappello da metterti in testa alla luciodalla in modo che non ti riconosca nessuno, no? Delle scarpette di fianco, uscire e camminare, perché al mattino poi hai fatto, come dicono i genovesi, abbiamo già dato, no? Sì. Hai già risolto, e questo è l'elemento che metterei in più, cioè ci aggiungo come stimolo la motivazione, creare delle situazioni come dire ambientali in cui la motivazione sia facile da espletare è un dato buono. Una volta che ti sei messo le scarpe, sei andato, te la cavi. Se ti metti sui pantaloni troverai 7500 scuse nel corso della giornata per non muoverti, e ricordarsi che si parte con una gentilezza. La gente dice: entra in studio e mi dice, ah no, non penserà che io vada a correre, no, va a camminare, non penserà che faccia mezz'ora, no, mi bastano 5 minuti. È l'inizio, è un percorso di 1000 chilometri, inizia dal primo passo, e questo va fatto. Quindi la motivazione è uno degli elementi aggiuntivi per rendere positivo il nostro sistema immunitario. Vediamo se è motivato Valentino, che ci chiama dalla provincia di Bergamo. 800 24 00 24. Valentino, buongiorno. Grazie di avermi chiamato. Sto parlando con viva voce, c'è qualche ritorno? No, per adesso andiamo bene, Valentino. No, perché ho un ritorno, beh, non fa niente, io sento bene comunque. Ci dica. Stavo dicendo, io lo zero ho smesso 16 anni fa di fumare. Bravo. Fumavo 60-70 sigarette, ho smesso, e però da lì è cominciata il mio aumento di peso. Ma sul 5 e sul... Valentino, mi scusi, ecco, zero 5, ci siamo, 5? 5, mangio frutta, insalata, è la mia rabbia che tutti mi dicono che sono grasso, sembra persino che sa cosa mangio, ma non sono un grande mangione, mangio, anzi, cerco sempre di stare indietro, che c'è una battuta così talmente spiritosa che gli dico a tanti, io sto vivendo una vita da ammalato per morire sano. Valentino, no, dai Valentino. Valentino, sul 30 come siamo? Il 30 fino all'anno scorso camminavo, poi ho avuto un problema di salute e mi sono fermato e dovrei riprendere. Allora, diciamo subito una cosa. Lo zero promosso. Sullo zero promossissimo, e voglio ricordare a tutti che proprio per la compensazione, io ricordo, ho detto prima, quando ho smesso di fumare ho, tra virgolette, fumato 80 mentini al giorno per i primi 15 giorni. No, c'è una compensazione, una gratificazione che indubbiamente uno cerca, e quindi hai giustificato un lieve aumento di peso nel corso dei primi 3-4 mesi. Sì. Dopodiché il resto non è più giustificato, cioè è legato ad un aumento proprio per compensare questa cosa. Invece la cosa fondamentale e importante è che sembra che questa persona abbia dei problemi, Valentino, legati ai segnali che dà al suo corpo. Quando uno è fermo, quando non cammina, non si muove, in realtà l'organismo mette in moto un meccanismo difensivo. Nel paleolitico, 1 milione di anni fa, quando ci fermavamo era perché stavamo male, e quindi la logica è: tutte le calorie che incontro le metto come scorta, come grasso, perché ho paura di affrontare una prossima carestia. La stessa cosa vale per la prima colazione. Quando parliamo di frutta, a me piacerebbe che Valentino dicesse: io mangio non frutta e insalata, che sembra una roba da seconda, da pranzo e da cena, ma che mi dicesse: mangio una coppa di macedonia al mattino, fantastica, di verdura e di frutta cruda al mattino. Invece la prima colazione sembra nella sua espressione poco presente. Quindi la prima colazione è uno degli elementi fondamentali per consentire di nuovo all'organismo di attivare quei segnali potenti che vanno anche a contrastare quelli indotti dalla cessazione del fumo. Stiamo cercando di risvegliare il nostro sistema immunitario, che a volte, abbiamo parlato dell'herpes o della raffica di starnuti, può darti dei segnali di affaticamento. Dottor Speciani, alcuni ascoltatori mi scrivono ad esempio le loro ricette. Luca mi parla dell'olivello spinoso per dare un po' di sprint al sistema immunitario. Guarda, va a toccare una sostanza poco conosciuta, tra l'altro abbiamo scritto proprio recentemente su Eurosalus, sì, un articolo sull'olivello spinoso. e che in realtà rientra nella logica degli antiossidanti. C'è una ricca composizione di vitamina C, ma anche di altre sostanze. E qui è vero, no, che ogni frutto in realtà ha dalla sua la possibilità di dare all'organismo la capacità di allontanare in un certo senso le tossine che abbiamo all'interno, le sostanze inquinanti, perché anche questo è un altro degli elementi importanti, capire che c'è una situazione di inquinamento purtroppo non facilmente risolvibile. E quindi ogni volta che utilizziamo delle sostanze ossidanti mettendole nella nostra alimentazione abbiamo dei benefici importanti. Viva l'olivello spinoso insieme ai lamponi, ai mirtilli, alle fragole, alle more e ai cavoli, abbiamo ai cavoli detto. assolutamente e soprattutto distribuire frutta e verdura nell'arco della giornata, iniziando dal mattino. Assolutamente sì. Dottor Speciani, la stanchezza, questa astenia che prende soprattutto le persone nel cambio di stagione, in primavera un tempo c'erano, no, le cure ricostituenti nel cambio di stagione, adesso sembrano un po' cadute di moda. Ah, io credo che noi dobbiamo ricordarci sempre della Montalcini, no? Che viva, sana, 103enne, piacevolissima, e del fatto che ha preso il Nobel per una sostanza che si produce nell'organismo quando si affrontano dei cambiamenti. Il cambio di stagione è sempre un momento un po' particolare per tutti, quindi è possibile che l'interferenza sul sistema immunitario, come l'infiammazione che spesso è connessa con questa, generino una maggiore stanchezza o stancabilità. Non sto a raccontare che in realtà la gente sta prendendo spesso farmaci che dà per scontati, quelli per la pressione, quelli per il colesterolo, cioè che possono avere come effetto collaterale delle induzioni di stanchezza, che quindi in momenti particolari si accentuano. E lì è importante conoscerlo, per capire che bastano a volte degli elementi come quello di dare delle sferzate potenti, come quella della prima colazione di cui si è discusso a lungo, anche adesso, anche oggi, per poter rimettere in moto alcuni di questi meccanismi. Quindi cerchiamo di rispettare i tempi del sonno, i tempi della veglia, cioè è inutile dire che uno è stanco perché dorme 2 ore per notte, perché a quel punto è giusto che sia stanco, il corpo dà i segnali per recuperare. Sistema immunitario maschile e sistema immunitario femminile, ci sono delle differenze, ne parliamo con la dottoressa Giovanna Luini. Buongiorno, medico e responsabile della comunicazione scientifica di EO, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa Luini, tra donne e uomini ci sono tante differenze, anche il sistema immunitario è un po' diverso. Diciamo che il sistema immunitario di noi donne è un pochino più vivace. Possiamo dire, il termine non è scientifico, ma penso che renda bene l'idea. Rende molto bene l'idea, quindi è scientifico come termine. Il nostro sistema immunitario, cioè il sistema immunitario femminile, è molto sensibile a ciò che proviamo, quindi alle emozioni. Questa è una parte della medicina che dovrebbe interessarci molto, perché siamo capaci, con le emozioni che viviamo, con lo stress cui sottoponiamo il nostro corpo, di indurre alcune reazioni del sistema immunitario. Non è un mistero che alcune malattie che si chiamano autoimmuni, cioè autoaggressioni del sistema immunitario verso noi stessi, dipendano anche, ma non solo, dal nostro stress emotivo. Allora, le donne hanno un sistema immunitario che scatta subito sull'attenti e risente delle emozioni. Ciò che mi sento di suggerire, sì, è dedicare almeno un'ora a se stesse ogni giorno, stare un po' attente anche alla sfera emotiva, quindi non abusare del proprio corpo. Io penso che in realtà le donne abbiano la tendenza ad abusare di sé, delle proprie forze, per occuparsi degli altri. Ecco, magari fermarsi un attimo un'ora al giorno non fa male, anche perché il sistema immunitario poi risponde a ciò che noi gli suggeriamo. Un'ora al giorno, se ci sembra troppa, 60 minuti, possiamo romperla in due, in mezz'ora e mezz'ora, dottoressa. Certo, vero? Certo. Che fa bene anche ai maschietti, non è che solo le femminucce. E dedicarci a delle attività che possono essere, noi stiamo insistendo molto sul cammino, la meditazione ha una relazione anche con il benessere del nostro sistema immunitario, dottoressa Luini? Sì, a me è stata proprio consigliata da un famosissimo immunologo e devo dire che, nonostante la mia giornata, come quella di tante altre donne lavoratrici, sia piuttosto intensa, ho trovato spazi per meditare, che significa semplicemente fermare la testa e buttare fuori tutte le preoccupazioni, stare un attimo in silenzio e calme, e ne ho avuto grande beneficio. Ho iniziato a consigliarla a tutte le donne che incontro, devo dire che funziona, sì. Professor Speciani, parliamo anche degli uomini. Alle donne la dottoressa Luini suggerisce: prendetevi spazi per voi, perché le emozioni parlano e condizionano il nostro sistema immunitario, così sempre pronto a mettersi sull'attenti. Per gli uomini valgono naturalmente gli stessi consigli, ma con che cosa in più o di diverso? Ma io credo che nella nostra storia, nella nostra tradizione, proprio nei cromosomi, abbiamo molto più segnato l'essere hunters, no? Quindi cacciatori. Allora il fatto davvero di camminare, si può tra l'altro riflettere, respirare se l'inquinamento ce lo consente, e quindi abbinare il fatto di dedicarsi uno spazio ad una attività che consenta comunque il movimento fisico. Nella parte maschile questa parte è sicuramente più forse presente in un certo modo, e condiziona anche rispetto poi alle modalità in cui le persone si configurano. Tu pensa che l'attività fisica migliora immediatamente la sensibilità insulinica, però è difficilissima per spiegare che uno con l'attività fisica va meno verso il diabete, si riduce la pancetta tipica da maschietto, che è più da maschietto che da femminuccia, sulla pancia e così via. Quindi il fatto di muoversi insieme al dedicarsi uno spazio è proprio quello che dicevo prima, segnalato dal nostro dottore tedesco, no? Cioè di avere un tempo che continua, quindi nella linea indicata dalla dottoressa Luini e dalla Montalcini, cercando di abbinare lo spazio dedicato a se stessi con l'attività fisica, che secondo me è molto più orientato sul piano maschile dal punto di vista pratico. Quindi alla nostra formula, ai nostri tre numeri, aggiungiamo l'attività fisica, quindi muoversi, meditare, e io aggiungerei sorridere. Dottoressa Luini. Ah, è fantastico, sorridere è fondamentale per noi stessi anche, perché quando sorridiamo diamo messaggi anche a noi stessi, e comunque ricordiamo che sorridere in questi tempi dovrebbe essere una missione per tutti noi, perché se non risolleviamo un po' gli umori generali probabilmente... Insomma, la situazione non va tanto bene, ma credo nella missione di ciascuno di noi. Sorridere è un dovere nei confronti nostri e degli altri. Dottoressa Luini, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata e tanti sorrisi. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e ritorniamo insieme con la nostra formula e con Massimo da Roma e un altro Massimo che però ci chiama da Varese. A tra poco. Essere e benessere. Buongiorno al primo Massimo, il Massimo di Roma. Buongiorno, Massimo. Buongiorno. Di Roma, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Eccoci, dunque, la mia storia è che da 2 settimane fa che sono stato dimesso all'ospedale per vari dolori al torace, che poi per fortuna non si è rivelato infarto, però ho avuto dei problemi perché si hanno scoperto un po' tutti i valori sballati, tutti legati al sovrappeso, tutto sommato. Quindi devo dimagrire, come mi hanno detto, dice non devi dimagrire anche se sei una buona forchetta, e mi hanno consigliato di fare del movimento. Sì. Chiaramente ci sta sempre questo compromesso che noi abbiamo sempre dei crediti verso altre persone della famiglia, per cui il tempo è sempre contingentato. Ora, rifacendomi anche all'aneddoto del dottor Strunz che ricordava il professore, no? Che dice la mattina appena ti svegli metti il cappello e cammina. Volevo chiedere, loro mi hanno consigliato, dato che ho pochissimo, poco tempo, mi hanno consigliato di usare il tapirulan. Parlando poi con colleghi e amici, dice no, lascia perdere il tapirulan, è meglio la bicicletta ellittica. Allora, dato che c'è stato un proprio, potrebbe essere un compromesso per poter fare, appena sceso dal letto, questo movimento nell'economia del mio tempo, volevo chiedere se erano dei presidi. Non dovrebbe neanche mettersi il cappello, perché no, la anche fa senza casa. Cappello, però ecco, io credo che la dinamica sia la stessa. Nel senso che per esperienza so che tra i due non c'è una grossa differenza. L'ellittica è più completa come tipo di movimento, anche perché coinvolge molto di più le braccia fondamentalmente. La cosa fondamentale è che uno inizia a muoversi. Quindi la cosa utile è che noi riusciamo ad avere uno strumento, che sia l'ellittica o il tapirulan, che sia che non obblighi la moglie, ad esempio la compagna, a mettertelo nascosto da qualche parte, che non ti obblighi a tenere tutta la sala occupata. Cioè, situazioni che lo rendano fruibile in maniera simpatica, semplice, senza creare disagio alla famiglia. Altrimenti nel giro di 15 giorni uno lo toglie di torno e allora diventa un appendiabiti, diventa come un appendiabiti, la mia cicletta. Tranquillo, la cosa fondamentale è iniziare, mettere quel cappello di cui parlavamo prima al mattino, anche se si è in casa senza metterselo, e iniziare davvero quello che sta più comodo in casa. Gabriele ci ha scritto una mail a esserebenessere@radio24.it e ha scritto: ho 47 anni, non fumo, mangio 5 persone al giorno di frutta e verdura, ma riesco ad andare in palestra 3-4 volte a settimana per attività cardio o di pesi. Va bene ugualmente o bisogna fare attività fisica 30 minuti al giorno? Si può concentrare 3 o 4 volte? Assolutamente, direi che Gabriele, anzi bravo, sta facendo più di quello che fa il 90% della gente, quindi è positivo. A quel punto Gabriele cosa ha da fare? Ha da gestire nel corso della sua giornata il fatto di parcheggiare la macchina un po' più lontana, di decidere di fare due scale a piedi, cioè di integrare un minimo di movimento aerobico aggiuntivo a quello che già fa in palestra. A questo punto le cose sono fatte. Massimo, che ci chiama invece da Varese, buongiorno. L'altro a lei. Massimo. Buongiorno. L'altro Massimo, tutti Massimi. Sì, Massimo, vorrei però diventare un po' minimo. Ma... nel senso, non sono troppo, non sono così grosso, però sono quel peso che mi dà fastidio. Morbido. Quel chilo in più, esatto. Mm. Adesso ho incominciato a fare corsa, ho preso un tapis roulant, per cui vabbè, cerco di svegliarmi la mattina presto, come diceva l'altra persona, per conciliare la famiglia. Il vero problema mio è la notte. Io mi sveglio di notte e mi viene fame. Volevo un consiglio su come risolvere, magari con qualche tisana, con qualcosa, per permettermi di non avere questo stimolo di notte che mi sveglio, poi faccio colazione alle 3 di notte, ecco, poi che è paradossale. Svegliarsi dalla fame. Svegliarsi dalla fame significa che non è stato correttamente riempito l'organismo nel corso della giornata. Allora, dobbiamo farlo, se il problema è quello di gestire il peso, al mattino. Che significa? Sveglia, entro un'ora andare a fare l'attività fisica che è prevista, che quindi è prevista dal tuo piano, e dopodiché fare una prima colazione che sia il 40-40, come un pasto. Allora, di fronte ad un problema del genere dobbiamo riattivare un meccanismo che è quello della produzione di un ormone che si chiama leptina, che viene fatta al mattino bilanciando bene carboidrati e proteine. Cioè al mattino, se non riesci ancora a mettere dentro una tipica colazione all'inglese in cui c'è dentro anche le uova, il prosciutto eccetera, mandorle, nocciole, così torniamo anche alla frutta secca, che è una delle valenze italiane, in modo da bilanciare anche l'aumento delle proteine, e usare l'integrale. Cioè quando si ha fame di notte perché si è usato poco a prima colazione male, e si è distribuito male nel corso della giornata. Allora 0530, io vorrei aggiungere un altro numero a questa formula, ce la facciamo aggiungere dal professor Luigi Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Professore, buongiorno, mi dia buongiorno, un numero. Buongiorno Nicoletta, il numero è 8 perché 7. A mio avviso 8 rappresenta il numero di ore che tutti noi dovremmo dormire per essere molto efficienti durante la giornata e per raccogliere tutto quello che c'è di positivo dal nostro sonno notturno. Perché dormire rinforza il nostro sistema immunitario? Certo, dormire rinforza il sistema immunitario, e dormire vuol dire anche avere appunto una buona, diciamo così, liberazione di quelle sostanze, che si chiamano interleuchine, che sono sostanze fondamentali per il buon funzionamento del nostro sistema immunitario. I nostri nonni dicevano: dormi tanto e così guarisci prima, quando hai soprattutto la febbre. E questo è vero. Questo è vero perché oggi sappiamo chiaramente che chi riesce a dormire in maniera sufficiente ha una liberazione di interleuchine in maniera appunto sufficiente, quindi un potenziamento del nostro sistema immunitario. Quindi quando abbiamo anche una febbre o un'infezione in corso, cerchiamo di dormirci sopra e sicuramente guariremo più in fretta. Professor Ferini Strambi, nel cambio di stagione molte persone hanno difficoltà a dormire. Ma sì, questo sostanzialmente anche se si dice aprile dolce dormire. Sì, questo è legato soprattutto al fatto che quando si cambia stagione si cerca, diciamo così, di vivere in maniera un po' diversa, quindi si esce di più alla sera, si rimane un po' in una condizione di privazione di sonno, ecco perché poi al mattino, soprattutto appunto con l'arrivo della primavera, si tende ad avere più sonnolenza. In realtà abbiamo più sonnolenza perché dormendo un po' meno di notte, avendo tolto qualche ora al nostro sonno abituale, al mattino vorremmo dormire un po' di più. Però la cosa importante è questa: quando facciamo questi cambiamenti stagionali, cercare di modificare anche le nostre abitudini di sonno in maniera molto graduale, cioè quindi non chiaramente modificare subito quelli che sono i nostri comportamenti. Grazie professore per essere stato con noi, buonissima giornata. Grazie anche a voi. E noi andiamo a Carpi perché c'è Anna Maria che ci chiama all'800 24 0024. Anna Maria, buongiorno. Ciao dolcissima. Ah, che gentile, grazie. Sì, hai una voce e un modo di parlare che mi piace tanto. Grazie, Anna Maria. Io ho un vocione, parlo sempre in fretta, amo le persone che parlano ad agio e non ci riesco io. Ma no, ci stai invece il professor Speciani può confermare, mi sembra che Anna Maria sia perfetta. Allora Anna Maria, veniamo alla domanda al consiglio. Avete parlato di frutti di bosco. Sì. Che ho capito che è meglio assumerli insomma freschi. Poi del cavolo invece volevo sapere è meglio crudo o cotto e quale altre verdure oltre il cavolo. Perché a chi non piace il cavolo? Allora il cavolo normalmente viene preparato crudo, buono, ed è tra l'altro ho conosciuto recentemente cuochi che riescono ad utilizzarlo crudo in aggiunta proprio per il suo sapore particolare. Appena scottato al vapore rimane ancora vivo con tutte le sue potenzialità e quindi ce lo possiamo gestire con tranquillità. E poi le verdure, l'abbiamo detto, chi non ama il cavolo, per cui non è obbligato a, deve fare delle scelte decisamente stagionali. Quindi adesso è tempo di zucchine. In questo momento sì, stanno iniziando a venire fuori, rapanelli, le prime insalatine. Rapanelli che tra l'altro sono ricchissimi di vitamina C. Fantastici sono i rapanelli, sono una delle cose più piacevoli e simpatiche che ci possano essere. Quindi non abbiamo, come ci scrive un ascoltatore, menzionato il peperoncino, che essendo ricco di vitamina C dà un aiuto al nostro sistema immunitario. Intanto che ringraziamo Anna Maria, vogliamo chiudere col peperoncino? Sì, no, aggiungo, oltre al peperoncino che rimane punto importante e soprattutto perché poi scopri che viene fatto in 3000 modi differenti, però anche questo, il peperoncino o il peperone comunque in generale crudo, hanno una valenza fantastica nell'apporto di vitamina C perfettamente assorbibile in modo adeguato. Masticarlo bene, perché talvolta le persone lo digeriscono con un po' più di difficoltà, ma assolutamente il peperone, perché peperoncino, il peperoncino manda a fuoco. Il peperoncino ha dentro degli stimolanti, ha dentro la capsaicina, che è uno stimolante potente del sistema immunitario. E non solo, vero? No, fa di tutto, ci mettiamo dentro il sistema immunitario, il sistema sessuale, il sistema digestivo, ce ne mettiamo una buona parte. Ragazzi, allora, dai. A pranzo, aglio, olio e peperoncino? Assolutamente. Grazie al professor Speciani per essere stato con noi, grazie a voi per essere intervenuti e per averci seguito. Vi ricordo che potete come sempre scaricare la nostra trasmissione, potete scriverci su Facebook, scriverci una mail e seguirci anche su Twitter. Grazie, a domani, buonissima giornata. Essere e benessere.